E quindi non ci rimane che iniziare. Intanto saluto anche Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, il grande Gianluca Becuzzi, musicista storico di area sperimentale, elettronica, eccetera, eccetera. Per cui andiamo ad iniziare con l'ennesima riproposizione del primo lavoro di Digin, artista veneto, di Venezia esattamente, un album del 2002 dal nome Kataros. Un album che uscì allora con la Slofter Productions di Marco Corbelli. Quindi ormai sono quasi 20 anni di interessante attività per questo artista. Questa sera ci andiamo ad ascoltare Soul Suicide. Break is on. Un inizio di prove tecniche e di trasmissioni, indubbiamente sull'onda del Death Ambient per quanto riguarda Gin. Si discuteva sulla pronuncia eventuale di questo progetto di Eugen Vintras. Lui, siccome fa il vago, noi ci stiamo un po' avventurando. Comunque dovrebbe essere Gin la pronuncia adatta, e ce l'ha detto il buon Roger Kemper. Si chiama Kathros, veniamo anche a scoprire, ogni volta ne viene fuori una, che il buon Eugen ha anche allestito un progetto collaterale dal nome Sindrome di Cotard, insieme a, probabilmente, a Gestel, come ci dice il buon Anto Zoviet di Omicidio. Qualche notizia magari si potrà trovare nella Death in Venice Productions, etichetta dello stesso Eugen. Questo invece era un lavoro che fu incoraggiato dal grande Marco Corbelli della Slaughter Production, ormai nel lontano 2002. Andiamo a salutare Alessandra in Fiamignano, Like Wake qui a Roma, Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster, di quali avremo presto notizie qui a Prove Tecniche, e avremo anche un lavoro di Deep Pit in Disorder la prossima settimana. Lo stavo per dire, anche Why Incision. Insomma, sono tante le iniziative musicali di Eugen Vintras, lo ricordo, proveniente da Venezia. Qualcosa di meno oscuro, ma relativamente, diciamo, è un modo diverso di esprimere inquietudine. Forse i contorni sono più sognanti, un sogno che ci porta in Islanda con i Sigur Rós, che ho sempre detto sono una mia debolezza non celata, indubbiamente. In passato li ho mandati spesso e è un po' di tempo però che li trascuravo, per cui abbiamo qui sotto mano questo Odin's Rem Magic, Sigur Rós, ma in collaborazione con Steindór Andersen, una splendida voce del folk islandese, Ilmar Horn Ilmarsson, già collaboratore con Current 93, e Maria Huldmarken Sigvusdottir. Consiglio anche di andare a vedere i video in YouTube, perché c'è una bellissima orchestra che li accompagna e c'è anche un bellissimo strumento, probabilmente, anzi sicuramente autocostruito, una sorta di xilofono che al posto dei tasti ha dei sassi di varia grandezza e suono. Insomma, questa prefazione per andarci ad ascoltare questa Steindór Eva Sigur Rós. credo letteralmente da brividi questa quarta traccia dall'ultimo album dei Sigur Rós, questa Stendur Heva. Ultimo album che si chiama Odin's Rem Magic, la splendida voce di Jonsi, quello che è rimasto dei Sigur Rós insieme al bassista, che dopo andrò a cercare, non mi ricordo il nome in questo momento, ma sicuramente anche la vincente collaborazione con l'altra voce veramente bellissima di Steindor Andersen. E oltre all'orchestra che li accompagna in questa performance, c'è anche Orn Ilmarsson, ricordo, di Current 93, collaboratore di Current 93. Il bassista si chiama Georg Holm. Cambi di formazione nei Sigur Rós, che sono rimasti fondamentalmente in due, ma appunto in questa occasione c'è un vasto arricchimento e sostegno da parte di orchestra e ospiti molto importanti. E se volete fare un giochino che a me è venuto spontaneo, sostituite queste due voci con quella di Björk e pensate anche al risultato che potrebbe venire. Credo che rimarrebbe un album sempre interessante. Chiaramente, se uno apprezza Björk, anche lei, come tutti sapranno, islandese. Poesia allo stato puro per Sigur Rós. Intanto saluto Tania, un abbraccio a lei. L'abbiamo fatta piangere, ma anche qui approfitto della solitudine per asciugarmi le lacrime con un fazzoletto strabagnato. E quindi, per farci quattro risate, ci andiamo al Zero K di Raffaele Pezzella, la terza etichetta fondata da questo factotum proveniente da Napoli, già noto come Sonologist. La Zero K la nominiamo in questo caso per Music for Abandoned Cold War Places, questa musica per posti abbandonati della guerra fredda. Questa è la tematica che prende in un certo senso spunto anche dalle vecchie cose di Brian Eno. E quindi ci andremo ad ascoltare tre brevi estratti da questa compilation, ossia i finlandesi Vahastima con Checkpoint Charlie, l'albanese Jeton Hoxha con Pripyat e poi Wilt con Three Mile Island. Notare come Pripyat sia poi il luogo dove c'era Chernobyl, la centrale nucleare di Chernobyl, al pari anche di Three Mile Island, vecchia centrale nucleare americana. E dalla Finlandia, come ho già detto, dunque andiamo in Albania. Lui è Jeto Noxa, cognome molto popolare in Albania. Questo è Pripyat, il luogo fisico della centrale nucleare di Chernobyl. eccolo qua, Vilt, questo è 3 Mile Island, sempre dalla medesima compilation, Music for Abandoned Cold War Places. Yeah. Anche questa sera abbiamo dato ampio spazio a questa compilation della Zero K, la terza label fondata da Raffaele Pezzella, che salutiamo anche se sappiamo che di sera, anche il mercoledì sera, è impegnato proprio con le sue etichette a produrre, a suonare, a comporre, a mettere contatti con i musicisti, dandoci poi queste compilation, ma non solo, veramente imperdibili. Questa sera Varistima, Jadonox e Vilt, i tre artisti che ho scelto e che ci hanno portato alla fine di questa compilation. Il prossimo mercoledì presumibilmente ci andremo ad ascoltare invece una Next Place Sound Group e label che ci offrirà una compilation riguardante la scena sotterranea messicana. Anche quello sarà un compendio molto molto interessante. Saluto Wurnus Island, progetto No Name di Dario Righi e Sera K.O. Fontana, Fulvio Biondo di Solar Lodge. Davide Mastrullo dei Canglore qui a Roma, un abbraccio anche a lui. Quindi la musica riguardante i posti abbandonati della Guerra Fredda, una sorta anche in certi casi di Fields Recording, un concetto che si può attuare e svolgere in tante maniere. In un certo senso lo ha fatto anche Alessandro Ragazzo, artista veneto del 1980, di Mestre per la precisione, che ha stampato da poco un interessantissimo lavoro al confine con la vera e propria musica concreta. Si chiama Cinque studi sul paesaggio e quindi, come già dal titolo si può evincere, come ci sia in qualche modo un approccio riguardante anche l'associazione dei nostri sensi con un paesaggio e le nostre intime sensazioni. Un album che viene stampato dalla Dissipazio, una nuova etichetta di Nicola Quiriconi, anche qui artista che abbiamo passato sovente. Ci ascoltiamo la prima parte di Passaggio numero 1, una traccia che dura 17 minuti, noi ce ne ascolteremo circa metà. Una new entry dunque qui a prove tecniche di trasmissione, trattasi di Alessandro Ragazzo che saluto con questo 5 studi sul paesaggio e vorrei leggere la prefazione o quantomeno qualche parola che invito veramente a andarsi a studiare meglio nel profilo Bandcamp di Alessandro Ragazzo. Abu Hassan Nuri, santo primitivo sufi, scrive: non possiedono nulla e da nulla sono posseduti. È la base per 5 studi sul paesaggio, come idea di svuotamento del paesaggio sonoro nel suo concetto e anche nella sua pratica. Un laboratorio di registrazioni ambientali e campionamenti. Alessandro Ragazzo lavora per la cancellazione del senso narrativo, la deposizione del reale e del logico, tentativo di esclusione dalla rappresentazione, spogliare vita e volontà attraverso il rumore. 5 paesaggi mancati, essendo noi fatti di quello che ci manca, frammenti di vissuti ormai già passati per essere continuamente scomposti e ricomposti. Negare nell'immediato il paesaggio, la sua esistenza temporale e corporea, escludendo anche se stessi da ogni forma di liberazione, anche dallo stesso ascolto. Eccetera, eccetera, eccetera. Interessanti considerazioni di Alessandro Ragazzo. Ricordo questo lavoro uscito per la Dissipazio di Nicola Quiriconi. Questa sera la prima parte di Paesaggio numero 1, la seconda parte ce l'ascolteremo la prossima settimana. Ancora Italia, RD è uno pseudonimo che nasconde Roberto Drago, già nei Tapes, vecchio progetto degli anni 80 insieme al fratello. Qui invece si muove da solo e ha stampato questo lavoro, credo proprio nel 2020, andrò a vedere meglio, dal nome Bodies Inspected, per la Svizzera luce sia di Sasha Rovelli e Neboy Sabacic. La classica scuola post-industriale italiana anni 80, almeno così si può percepire anche in queste due tracce che ci andremo ad ascoltare, ossia Doping Robot e Event Horizon. Thank you.